24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:33 minuti, cari ascoltatori, ci siamo anche oggi. Bene, di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Oggi parliamo di Di Pietro, perché lo sapete, da alcuni giorni dopo che è apparsa una foto sul Corriere della Sera in prima pagina qualche giorno fa che ritrae l'allora PM di Mani Pulite Di Pietro con alcuni esponenti dei servizi, una foto rispuntata dopo 17 anni, qualcuno ha detto: vedete, è la prova di Di Pietro manovrato dai servizi segreti durante Mani Pulite. Di Pietro sdegnato ha risposto: vi chiediamo proprio questo, vi sembra credibile questa versione? Di Pietro manovrato dai servizi segreti durante l'era di Tangentopoli? Dovete votare su radio24.it. Questo è un tema che comunque continua come filone sui giornali, anche se i temi di apertura sono altri, ma andiamo a vederli i giornali. In primo piano. E la situazione finanziaria, soprattutto con quello che è successo in Spagna, con il crack della borsa, o meglio il forte ribasso. Il debito spaventa i mercati, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, sui tassi dei bond spagnoli, nuovi timori per Atene e Lisbona. Ma un po' ovunque il Corriere, effetto debito, paura delle borse. Repubblica, rischio debito, tremano le borse. La Spagna spaventa l'Europa, questo per La Stampa. Insomma, questo è il tema di apertura, poi ne vedremo altri, come detto sul Sole 24 Ore, a pagina 5, Beda Romano, il rischio debito affonda le borse. C'è anche un'analisi di Michele Calcaterra da Madrid del perché in Spagna i riflettori sono puntati, insomma, su quello che sta succedendo. Il premio Nobel José Saramago, scrive Calcaterra, rilancia regolarmente l'idea di una penisola iberica unita, vale a dire una fusione Portogallo-Spagna capace di dare forza ai due paesi. Si tratta ovviamente di una proposta che non può stare in piedi e che dimostra i suoi limiti e la sua fragilità proprio in situazioni di crisi come quelle attuali. Valga per tutti un dato: Madrid e Lisbona hanno chiuso il 2009 con un disavanzo pubblico rispettivamente dell'11,4% e del 9,3%. E poi Calcaterra parla di come qualche osservatore parla di Spagna come, non dico possibile nuova Grecia, ma comunque, vedete qui, i tre principali pilastri dell'economia, auto, turismo e immobiliare, sono alle corde. Ci sono oltre 700.000 case in attesa di essere vendute, debiti nel settore immobiliare per oltre 325 miliardi di euro, vale a dire il 30% del PIL del paese. Per questo gli investitori internazionali si interrogano proprio sulla tenuta della Spagna. Intanto Zapatero ha annunciato di voler allungare l'età pensionabile da 65 a 67 anni entro il 2025. Già i sindacati sul piede di guerra. Insomma, quello che sta succedendo in Spagna è attentamente da monitorare. Vedremo anche oggi come reagiscono le borse, come apriranno oggi le borse. Venendo a temi sempre economici, ma spostandoci sul fronte italiano, sicuramente quello che trovate di altro tema legato è, e trova spazio in prima pagina sempre sul Sole, incentivi, duello Fiat governo. Vale a dire, ieri abbiamo letto questa intervista dell'amministratore delegato Marchionne di Fiat sulla Stampa. Il tema è: incentivi sì, incentivi no. Alta tensione sugli incentivi auto, è la pagina 3 del Sole 24 Ore. Berlusconi dice: eravamo pronti ma Fiat non li vuole. Marchionne ieri aveva detto: il governo faccia la sua scelta, noi siamo agnostici, l'accetteremo senza drammi, basta saperlo in fretta, tecnicamente. Berlusconi ieri allora ha detto: pare che il principale produttore non sia interessato ad averli, è ancora un capitolo aperto, eravamo pronti a discuterne. E ieri poi Marchionne ha fatto un'altra nota: l'eventuale scelta del governo di non rinnovarli ci trova pienamente d'accordo, quello di cui c'è bisogno adesso non sono palliativi al mercato ma una forte e seria politica industriale. Insomma, incentivi sì, incentivi no, questo è il tema che campeggia da qualche giorno sempre il Sole, con Carmine Fotina che in un articolo fa comunque capire che dovrebbero attestarsi attorno a 600 milioni la dote complessiva disponibile per il decreto dello sviluppo, tutto da verificare a questo punto la composizione del provvedimento, visto che c'è questo tema su incentivi all'auto sì o no, con questo anche dichiarazioni da una parte del governo, da parte di Fiat. Probabile, scrive Fotina, che nel decreto ci sia spazio per gli elettrodomestici ad alta efficienza e immobili con aiuti mirati soprattutto per le cucine. Questa insomma è la discussione. Voglio segnalare sul tema economico e finanziario un'interessante intervista al premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, premio Nobel del 2001, la fa Stefano Lepri sulla Stampa. E Stiglitz è molto duro, fanno soldi sul disastro che loro hanno creato. È un paradosso assurdo, colpa degli speculatori che prendono di mira i governi più indebitati. Dice Stiglitz, non lo vede, i governi hanno contratto molti debiti per salvare il sistema finanziario. Le banche centrali tengono i tassi bassi per aiutarlo a riprendersi, oltre che per favorire la ripresa. E la grande finanza cosa fa? Usa i bassi tassi di interesse per speculare contro i governi indebitati. Riescono a far denaro sul disastro che loro stessi hanno creato. Insomma, speculatori finanziari nel mirino per Stiglitz. Dice come si può rimediare. Primo, niente denaro alla speculazione. Negli Stati Uniti come in Europa bisogna fare nuove regole per le banche. Secondo, bisogna imporre tasse molto alte sui guadagni di capitale. Oggi è più vantaggioso speculare che lavorare per vivere. Deve tornare ad essere il contrario. Punto terzo, in Europa dovete appoggiare i governi in difficoltà. Questa la ricetta poi sviluppata, analizzata in questa intervista da Joseph Stiglitz, ripeto, Nobel per l'economia del 2001, lo trovate intervistato sulla Stampa a pagina 3. Veniamo alle cose più italiane. Tralascio perché oggi ci sono tanti spunti. Il tempo corre, ovviamente, magari se riesco a saltare qui e lì, riesco a darvi tanti spunti per cui comprare poi uno o più quotidiani. Tralascio la vicenda dell'Iran, che dice Berlusconi è servo di Israele, ma trovate sviluppi anche e analisi di quello che ora farà l'ENI, che è un grande investitore in Iran, ma ovviamente queste dichiarazioni anche di Berlusconi e poi dell'Iran cambiano un po' la situazione. Tralascio anche, o faccio un cenno, alla vicenda della scuola, al via la riforma delle superiori a pagina 17 del Sole, una riforma definita epocale, storica dal ministro di istruzione Maria Stella Gelmini. Faccio solo un cenno perché poi alle 9 il ministro Maria Stella Gelmini sarà ospite a 9 in punto, condotto da Oscar Giannino, e dunque sentiremo dalla viva voce del ministro tutte le novità, con anche la possibilità ovviamente di intervenire in diretta per porre domande. Cito solo i titoli critici a questa riforma. I titoli sono di prima pagina del Manifesto e l'Unità, dunque giornali orientati a sinistra. Somari per sempre, titola il Manifesto, c'è la foto proprio di un somaro, il muso di un somaro in prima pagina. Il governo dà il via libera alla riforma delle scuole superiori voluta dai ministri Gelmini e Tremonti, forti riduzioni degli orari, taglio di 17.000 cattedre. E la questione dei tagli è anche il punto centrale della critica dell'Unità. La riforma Gelmini stella mani di forbice, ci sono delle forbici stilizzate proprio a dire questa riforma porta soprattutto dei tagli. Ma ripeto, ore 9 il ministro Gelmini sarà ospite di Oscar Giannino, ne parleranno per un'ora di questo e anche di altri temi ovviamente. L'altro fronte che è uscito dal Consiglio dei Ministri e che oggi trovate ampiamente spiegato sui giornali è quello del nucleare. E sapete che il governo vuole il ritorno al nucleare, molte regioni hanno fatto ricorso alla legge che ripristina il nucleare e il governo ieri che ha fatto contro ricorso, insomma, alla Corte Costituzionale contro le leggi regionali che impediscono il nucleare. Insomma, Atomo decide la Consulta, così si legge sul Sole 24 Ore. Il governo impugna davanti all'Alta Corte le leggi anticentrali di Puglia, Campania e Basilicata. Il ministro Scajola dice una decisione necessaria, il ritorno nucleare non è rinviabile. E ovviamente ci sono delle interviste, tra l'altro curiosa la posizione. La prima è di De Filippo, Vito De Filippo è presidente della Basilicata, che si ricandida alle prossime elezioni, e dice sono contrarissimo al ritorno del nucleare in Basilicata, non voglio però mettermi nei panni del governo che legittimamente ha scelto una strada. Se vogliono le centrali dovrebbero dialogare, non impugnare le leggi regionali. La prima bomba atomica l'hanno sganciata loro e poi non facciamo altro che dire no a ciò che sancirono gli italiani nel referendum dell'87. Insomma, sono le solite motivazioni per dire no. E poi c'è la classica frase: la Basilicata ha già dato. E la stessa frase la troviamo sul Corriere della Sera: il Veneto ha già dato. E questo lo dice Luca Zaia, che è il candidato, oltre che ministro, è il candidato per il centrodestra, per la Lega, alla Regione Veneto. E allora Zaia, in questa intervista, in cui parla molto di federalismo, in realtà per la prima volta si espone in maniera, è sempre stato un po' scettico sul nucleare, ha detto vedremo, ora fa un passo avanti, il titolo è emblematico, il Veneto ha già dato, mai una centrale qui. In realtà una frase del genere non c'è nell'intervista, questo per correttezza di informazione, almeno io non l'ho trovata. Dice però Zaia, in assenza di alternative che ci diano un bilancio energetico positivo per l'Italia, il nucleare può essere una strada, ma il Veneto la sua parte l'ha già fatta, con il rigassificatore al largo delle sue coste, la riconversione al carbone di Porto Tolle. Da quel che ci dicono i tecnici, il nostro bilancio è positivo. E domanda, ma se il governo vi chiede di mettere la mano sul cuore, il Veneto la mano sul cuore la mette da sempre. Questo però non significa che continueremo a farlo. Prima dovremmo vedere con dati inoppugnabili che non ci sono alternative in tutte le regioni in cui il bilancio energetico è negativo. Cioè, noi il bilancio energetico ce l'abbiamo positivo perché dobbiamo prenderci una centrale. Questo è il ragionamento di Zaia. Io comunque manterrei le mie più totali perplessità. Dunque, mai una centrale qui, non l'ha detto, però le perplessità sono tante. Ho trovato per il fronte della politica molto della vicenda di Pietro. Ancora il nostro sondaggio di Pietro, allora era, come dice lui, sì, ero James Tonino Bond, ma non fatemi ridere, oggi ancora su Repubblica dice una boiata pazzesca questa cosa che io sarei un uomo manovrato dai servizi, com'è che l'ha definito in un'intervista? Una boiata mostruosa, io... sì, individuano un contadinotto che nessuno conosce, lo reclutano in Germania mentre fa il metalmeccanico, lo raccomandano per farlo laureare e diventare magistrato, poi lui raggira Borrelli, decine di collegi giudiziari, delegittima la classe politica italiana perché non piaceva agli Stati Uniti dopo il caso Craxi-Sigonella. Una boiata mostruosa. Sta di fatto che però Di Pietro ancora oggi sul Corriere viene accusato da questo avvocato che sarà anche nostro ospite alle 8:30, Mario Di Domenico, cofondatore dell'Italia dei Valori, con lui ora suo acerrimo nemico, che siccome è un'intervista a Di Pietro ha detto io negli Stati Uniti per raccogliere fondi elettorali e soldi con questo Mario Di Domenico, no, non ci sono mai andato, e oggi il Corriere che fa? Pubblica le foto del viaggio negli Stati Uniti di Mario Di Domenico con Di Pietro, questo almeno scrive Felice Cavallaro. Eccole qui le foto, con anche tanto di assegni versati da un finto ingegnere, tale signor Gino Bianchini, che avrebbe dato 50.000 euro, peraltro mai incassati, 50.000 dollari, perché allora l'euro non c'era, 50.000 dollari, mai incassati per finanziare l'Italia dei Valori. Insomma, il mistero si infittisce, ne parleremo alle 8:30. È il nostro sondaggio. Che ne pensate di Pietro? Vi pare credibile che potesse essere manovrato dai servizi segreti americani durante l'era di Mani Pulite? Questo è il nostro tema. In primo piano. Accordo tra ministri sugli immigrati, sì al permesso di soggiorno a punti. Ieri è stato annunciato, probabilmente arriverà il permesso di soggiorno a punti con gli immigrati, l'obbligo di imparare l'italiano, istruire i figli, iscriverli al servizio sanitario, mandare i figli a scuola, se si commettono i reati i punti vengono tolti, se dopo 2 anni bisogna fare l'esame di italiano, bisogna, insomma, si possono perdere punti se si commettono reati, come la patente. E tra l'altro il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, fa 2 pagine a spiegare come avviene negli altri paesi, in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna, in Australia, c'è chi è a favore, c'è chi è contro. Guardate che mi sa che questo è un tema che lunedì tratteremo, così ve lo posso anticipare perché è molto interessante. Lo trovate, il permesso di soggiorno a punti, spiegato sui vari giornali. Voglio, nelle varie citazioni, Allora, intanto trovate ancora molto del caso boffo, un pochino non se ne può più, ma un pochino mi intriga, perché accidenti, ogni giorno se ne scoprono davvero di nuove, no? Intanto il Foglio continua, insomma, a parlare di quello che sta succedendo in Vaticano dopo il caso boffo, ormai lo sapete, no? Per chi ci segue, le dimissioni del direttore d'Avvenire dopo che fu pubblicato da Vittorio Feltri delle notizie su una sua condanna precedente. Chi diede l'informazione? Chi diede soprattutto la notizia sulla quella velina falsa, sulla presunta omosessualità di Boffo? Oggi è Vittorio Messori che lancia la sfida sulla stampa e dice: il Vaticano tiri fuori le carte su Boffo. Chiedo che la Chiesa renda finalmente pubblici gli atti del processo di Terni in cui è condannato Boffo. Così sapremo di che stiamo parlando, se di qualcosa di grave o di una debolezza o di un gesto di carità male interpretato. Il Vaticano tace, dice Messori, perché è a disagio. Vittorio Messori è un grande scrittore cattolico, uno dei più influenti anche conosciuti nel mondo. Ha peccato due volte, dice il Vaticano. La prima contro la virtù della prudenza, quando ha lasciato al suo posto Boffo, perché benché tutti sapessero da anni, e lo sapevo perfino io, che sul suo capo pendeva un possibile scandalo, cioè quella condanna per molestia. E questa è una responsabilità del cardinale Ruini e del suo successore Bagnasco. La seconda volta il Vaticano ha peccato contro la verità, perché la trasparenza è un aspetto della verità e il Vaticano non è stato trasparente. Ha reagito in modo grottesco, parlando di un inesistente attacco alla Chiesa, ma non ha voluto mostrare i documenti del processo, che per legge dovrebbero essere pubblici e invece sono stati secretati. Allora dice Messori: rendiamo pubblico e così vediamo di cosa stiamo parlando. Secondo Repubblica addirittura è il Papa in persona che se ne sta occupando. Il Papa, nonostante l'intensità degli impegni e delle udienze, ha chiesto un rapporto dettagliato, un intervento discreto ma molto molto deciso per capire cosa sta succedendo. Staremo a vedere tutt'altri scandali, ma è la pagina prima del Giornale che voglio andare a citare, perché è un qualcosa che ha solo il Giornale, che in realtà riprende il settimanale Oggi. I VIP dei ricatti a luci rosse. Attenzione, perché il settimanale Oggi rivela: dall'inchiesta Vallettopoli bis in corso a Milano è in arrivo un nuovo scandalo. Trovate decine di foto compromettenti, coinvolti anche famosi calciatori che andavano a trans. Ed è Luca Fazzo a pagina 9, nel tritacarne di Vallettopoli bis, le ultime indiscrezioni, appunto, rilanciate da Oggi, nonostante le bocche cucite alla procura di Milano. Ebbene, voci e null'altro, per carità, ma si parla di un esponente del sindacato, un sindacalista di livello nazionale che sarebbe stato paparazzato a trans. E poi io leggo, poi nessuno, andremo a vedere. E poi, attenzione, suonavano al citofono di Via Gradoli, dove fu preso anche Marrazzo, calciatori di Serie A, immortalati da teleobiettivi. Una serie di scatti fotografici riguarderebbe anche una ministra dell'attuale governo in compagnia di un noto imprenditore. Un direttore di TG sarebbe stato colto nel corso di una scappatella. Una divorzianda famosa sarebbe stata immortalata durante una romantica vacanza siciliana. E infine, l'unico che è un po' sfigato, viene citato con nome e cognome, Stefano Ricucci, sarebbe rimasto anche lui vittima dei paparazzi. Vero, non vero, chissà. Intanto qualche titolo c'è già. Voglio andare a chiudere con un argomento molto molto più serio. Lo trovate su tutti i giornali, una cosa straordinaria e che apre nuove discussioni. La leggo dal Sole 24 Ore in prima pagina, Leonardo Maisano. Se la scienza sposta il confine tra morte e vita. Tuo padre si chiama Alexander? La risposta non è orale, nemmeno scritta, non è un battito di palpebre, né un gesto, nessun segno del corpo. Il sì è un sussulto del cervello che salda in una nuova straordinaria unità la mente con la corteccia cerebrale. Un giovane di Liegi, da 5 anni considerato in stato vegetativo per un incidente stradale, ha sbaragliato suo malgrado le certezze della scienza, spalancando, grazie all'innovazione tecnologica, un delicato dibattito su vita, morte e l'etica che avvolge il destino di un paziente incosciente. I ricercatori dell'Università di Cambridge e di Liegi hanno pubblicato sul New England Journal of Medicine uno studio che dimostra come pazienti considerati vegetali sono in realtà coscienti e in grado di interagire. Il giovane belga lo ha dimostrato rispondendo a domande precise. Per farlo ha utilizzato solo l'attività cerebrale. La sostanza grigia, infatti, ha reagito agli stimoli, indicando sì e no. La risposta affermativa si manifestava attivando una parte della corteccia, quella negativa un'altra parte. Se vuoi dire di sì, gli hanno detto i ricercatori, pensa di giocare a tennis. Se vuoi dire di no, pensa alla tua casa. E così ha fatto 5 volte, affidando la sua, tra virgolette, parola agli scanner della risonanza magnetica funzionale che hanno registrato in diretta le scosse del cervello. Ogni sussulto cerebrale è stato così trasformato in parola, liberando un uomo dalla corazza più atroce, più totale, dell'incomunicabilità. Insomma, il tema è questo: pazienti in stato vegetativo rispondono agli stimoli. Questo sarebbe lo straordinario risultato di una ricerca che sposta appunto i confini tra quella che è la vita, la morte, le scelte etiche, anche in casi che hanno fatto molto scalpore, hanno suscitato molto dibattito, di appunto dei pazienti in stato vegetativo permanente. Lo trovate sul Sole 24 Ore, con anche 2 posizioni, perché sì perché no, di Davide Rondoni e Gilberto Corbellini, all'interno a pagina 10, ma lo trovate anche un po' su tutti i giornali, questa ricerca molto interessante. Allora, il nostro sondaggio: Di Pietro vi pare manovrato dai servizi segreti, almeno all'epoca di Tangentopoli? Vi pare credibile? Votate su radio24.it. Sono le 8:16, ben ritrovati con 24 Mattino. Eccoci qua ancora per parlare di economia. Soldi e dintorni. Eccoci a concludere la settimana con la nostra Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti. Nevica un'altra volta. Ricominciamo. Nevicava stamattina, adesso è pioggia, triste. Sì, però guarda, grigia. Guarda questo tettino qua davanti a noi, è tutto quanto bianco. Ah, vabbè. Ci consoliamo così. Noi milanesi, cosa posso fare? Sono meteopatica. Ci ascolteranno in Friuli, nel Veneto, esatto, nelle Dolomiti, pieni di neve fino al collo, e diranno: ma rideranno di noi. Esatto. Allora, di cosa parliamo stamattina? Te lo ricordi che da quando c'è stato il vertice di Copenaghen sul clima ci siamo appassionati tutti alle tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente, alla lotta contro lo spreco, siamo diventati anche tutti da più. Prima, spero. Anche da prima, diciamo che Copenaghen ha stuzzicato un po' di più la nostra coscienza ambientalista, sicuramente, speriamo che duri. Chiaramente noi dobbiamo poi cercare di declinare il tema ambientale che magari scegliamo di affrontare in termini economici e in termini di suggerimenti di buonsenso nei comportamenti da rivolgere a chi ci ascolta. E quindi che cosa facciamo qualche volta? Senza pretendere di dare chissà quali tipo di ricette, cerchiamo di sollevare l'attenzione su alcune questioni alle quali magari in totale buona fede nei gesti quotidiani non pensiamo. E allora ieri ha stuzzicato la nostra attenzione un articolo apparso sul quotidiano La Stampa dal titolo "Il caos delle pile scariche, arriva in Italia la normativa europea sul riciclo, ma in Italia nessuno sa dove raccoglierle". E allora che facciamo con le pile e le batterie che dobbiamo smaltire? Stamattina ci dà qualche suggerimento di buonsenso, oltre che a dirci anche un po' come ci si comporta in Italia, come si comporta nei comuni, l'ingegner Giancarlo Morandi, che è presidente di COBAT, il Consorzio Nazionale Batterie Esauste. Ingegner Morandi, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, qualcuno potrebbe pensare, di coloro che ci stanno ascoltando, ma di che cosa state parlando? Io butto via 4 batterie l'anno, magari riferendosi all'estilo della macchina fotografica, del telecomando, della radiolina. Qui, ingegner Morandi, parliamo ovviamente anche di numeri un po' più importanti e dobbiamo subito fare una differenza fra le pile dell'uso quotidiano e le batterie che invece hanno, come dire, una dimensione un po' più grande e che sono destinate ad altri usi. Sì, per dire cos'è successo, è successo che finalmente l'Unione Europea si è accorta che pile, batterie, accumulatori elettrici in generale negli Stati membri non venivano raccolti, nonostante i suggerimenti, diciamo, di una direttiva precedente, e ha emanato una direttiva cogente, cioè che obbliga gli Stati membri alla raccolta. Noi in Italia siamo virtuosi e da tempo avevamo intrapreso la raccolta delle batterie al piombo di tutti quegli accumulatori che fanno partire le nostre automobili la mattina, ma che sono anche nei carrelli trasportatori delle aziende, che fanno andare i sottomarini sott'acqua, cioè un prodotto di grande importanza nell'economia moderna, mentre l'Italia non si è assolutamente occupata di raccogliere quelle che appunto in Italia chiamiamo pile, mentre all'estero anche queste si chiamano batterie. No? Le pile che abbiamo in infinite apparecchiature che usiamo tutti i giorni, dagli orologi che hanno dentro una piccola pila al mercurio, a tutti i telecomandi, macchine fotografiche. I giocattoli dei bambini, quelli sì, esatto. Esatto, esatto. Per cui in Italia la raccolta di queste pile avveniva solo a macchia di leopardo, con degli input diversi zona per zona dovuti all'attenzione o meno dei singoli comuni. Adesso che cosa è cambiato allora? Adesso c'è l'obbligo per i produttori, che tra l'altro in Italia non ci sono, ci sono solo importatori, che però hanno lo stesso obbligo naturalmente, di avviare la raccolta anche di queste, anche di questi prodotti, anche delle pile. Per cui mentre per le batterie al piombo il COBAT, il nostro consorzio che opera da 20 anni in Italia, raccoglie già tutto quello che si deve raccogliere, per cui ottemperiamo al 100% alla direttiva europea, per quanto riguarda le pile ancora non si è avviata in Italia una raccolta su tutto il territorio nazionale. Ecco, ammettendo allora che da oggi o dai prossimi giorni, dalle prossime settimane, tutti i comuni italiani si sensibilizzassero di più sull'argomento, che cosa dovranno fare, ingegner Morandi? Perché spesso naturalmente ci capita, questo succede soprattutto nelle città grandi, io mi riferisco a Milano perché questa è la città che conosco, che troviamo magari qualche contenitore dove possiamo smaltire le pile che buttiamo e che si sono esaurite nel loro utilizzo quotidiano, che naturalmente ne abbiamo fatto. Questo significa che praticamente ogni comune dovrà disporre in determinate parti del territorio contenitori come quelli di cui sto parlando? Guardi, questo non dovrebbe dipendere tanto dai comuni, perché appunto la direttiva pone in capo l'obbligo della raccolta ai produttori di pile. Noi abbiamo fatto un'area test in provincia di Lecco, anche in comune di Venezia, anche nel parco del Gran Paradiso, e d'accordo con l'amministrazione provinciale e per cui con tutti i comuni della provincia abbiamo installato, ma noi COBAT, non tanto i comuni, dei contenitori dove poter portare le pile, nelle scuole, in tutti i posti insomma dove poteva essere utile, oltretutto mettendo a disposizione dei cittadini la rintracciabilità di questi contenitori attraverso internet, no? Attraverso, certo, il sito della provincia. E perché per forza, perché poi bisogna raggiungere anche la gente, perché altrimenti tutte le iniziative hanno, come dire, lo spirito viene completamente vanificato. Perfetto. E quindi tre iniziative virtuose sul territorio, adesso però l'obiettivo naturalmente è parlarne anche altrove. Ma il problema è che siccome questa direttiva permette a ognuno di mettersi a raccogliere le proprie pile, ci sono in Italia 16 consorzi che si sono candidati a questa raccolta, per cui ognuno dovrà organizzarsi, e questo è un problema che secondo me il legislatore non ha affrontato correttamente, perché siccome la raccolta delle pile è costosa, cioè non rende economicamente, rende molto dal punto di vista ambientale, ma rispetto a quella delle batterie non rende economicamente, è molto difficile coordinare una raccolta fatta da 16 soggetti diversi. E infatti lo immagino. Allora, in attesa che questa situazione venga disciplinata anche dal punto di vista legislativo un po' meglio, cosa possiamo fare noi come consumatori, ingegner Morandi, naturalmente per prenderci in qualche maniera, per quello che è la nostra piccola competenza, carico del problema? Ci dia qualche consiglio per un corretto uso di queste pile, che comunque poi smaltirle dal punto di vista ambientale credo che sia anche un problema, perché hanno anche degli elementi chimici interni che sono dannosi ovviamente, certo, in grandi, certo, quantità. Diciamo che le pile hanno un vantaggio rispetto ad altri prodotti che noi dobbiamo riciclare, che si possono accumulare nella propria abitazione, nel senso che le statistiche ci dicono che in un anno pro capite noi dovremmo consumare circa 1,5 kg di pile all'anno, no? Il che vuol dire che è un barattolino, è un quarto di scatola di scarpe praticamente, no? È molto poca roba, per cui c'è il vantaggio per noi di poterla accumulare, di non dover andare tutte le volte che abbiamo una pila a portarla da, certo, qualche parte, come capita con la spazzatura ogni giorno, certo, esatto. E a questo punto dovrebbero i nostri comuni, insieme appunto a queste organizzazioni che si occupano della raccolta, metterci a disposizione un posto dove poter conferire queste pile. Certo, un altro suggerimento che viene dato è quello magari di evitare di accumularne tanto e tante in casa, acquistarne un po' meno solo perché in sostituzione di quelle, come dire, usa e getta, si può comprare per esempio la pila ricaricabile. Sì, in Italia è poco diffuso, è poco diffusa la vendita delle pile ricaricabili. Perché? Perché, ingegner Morandi? Perché non ci piacciono? Ma perché probabilmente non amiamo molto questa, applicarci direttamente a fare questo piccolo lavoro di caricare le pile, che invece rende dal punto di vista economico per noi, cioè per chi lo fa, per i cittadini, e rende anche dal punto di vista ambientale, perché naturalmente i prodotti da smaltire diminuiscono enormemente. Magari, insomma, raccontiamo ai nostri consumatori, non è niente di complicato, esattamente come carichiamo ogni giorno il cellulare che si scarica, la batteria del cellulare che si scarica, lo si può fare anche con le batterie che mettiamo magari nella macchina fotografica. Queste sono, come dire, le best practice che possiamo adottare per naturalmente aumentare la nostra coscienza ambientalista in questo settore. Qualche ultimo suggerimento ai nostri ascoltatori, ingegner Morandi? E soprattutto, secondo lei, insomma, quando saremo pronti un po' meglio in Italia a gestire lo smaltimento di questi, di queste batterie, di queste pile? L'Unione Europea, come già accennavo, ci obbliga a dei traguardi per il 2012, per cui siccome i traguardi non si raggiungono in genere immediatamente, quando ci sono di mezzo i comportamenti sociali, quest'anno io credo che dovrà partire necessariamente la raccolta in Italia, anche perché altrimenti le case produttrici, che già fanno pagare un contributo ambientale ai consumatori per la raccolta, dovrebbero essere messe in mora dal ministero o quant'altro. Benissimo. Per cui io da questo punto di vista sono ottimista, anche perché per esempio per quanto ci riguarda noi stiamo attrezzando tutta la grande distribuzione e i comuni, noi abbiamo delle convenzioni praticamente con quasi tutti i comuni italiani per la raccolta di queste pile, ancorché non abbiamo avuto un incarico diretto da nessuna azienda produttrice finora, poche insomma. Però siete partiti da soli. Presidente, allora vedremo magari nel corso dell'anno in che misura la direttiva europea recepita dall'Italia appunto troverà applicazione sul territorio. Per adesso la ringrazio e le auguro buon lavoro. Altrettanto voi. Grazie, ingegner Morandi. Alessandro. Eccoci qui. Allora, alle 12 noi ci occupiamo dell'acquisto della casa, sì, in costruzione, quindi le case nuove. C'è un vademecum che è stato pubblicato ieri dal Consiglio Nazionale del Notariato, però naturalmente non potremo anche non osservare quello che accade in questa giornata di borsa dopo i crolli, certo, di ieri. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. La borsa di Tokyo chiude in ribasso del 2,89% il giorno dopo il crollo dei listini europei. Preoccupa soprattutto la tenuta della Spagna, ma il premier spagnolo Zapatero rassicura: il nostro sistema finanziario è solido e forte. Botta e risposta, governo Fiat sugli incentivi. Berlusconi dice: stavamo esaminando se rinnovarli, ma pare che la Fiat non li voglia. Replica il numero uno del Lingotto, Marchionne: più che incentivi serve una politica industriale seria per l'auto. Dal Consiglio dei Ministri via libera la riforma che riordina i licei, una riforma epocale, dice il ministro Gelmini, e vi ricordo che il ministro sarà ospite di Oscar Giannino alle 9 in 9 in punto. Infine, per il calcio, la Roma ha battuto l'Udinese 2-0 nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, il ritorno sarà il 14 di aprile. E allora alle 8.34 minuti, come detto, il nostro sondaggio oggi è su Antonio Di Pietro, o meglio, vi sembra credibile che Antonio Di Pietro possa essere stato manovrato, una pedina dei servizi segreti all'epoca di Mani Pulite? Di questo parliamo in bianco o nero. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Sono alcune foto che fanno discutere, foto pubblicate, una soprattutto dal Corriere della Sera in prima pagina qualche giorno fa, che ritrae Antonio Di Pietro a una cena del 92 in una caserma dei carabinieri, con lui ci sono anche alcuni esponenti dei servizi segreti, tra questi anche Bruno Contrada, che di lì a poco, al momento era un funzionario di polizia, ma 7 giorni dopo sarebbe stato arrestato, poi è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Era il giorno anche dell'avviso di garanzia a Bettino Craxi, era l'epoca di Mani Pulite. C'era anche un esponente nella foto, pare dei servizi segreti americani o legato ai servizi segreti americani, insomma. Ma allora, Antonio Di Pietro era manovrato dai servizi segreti americani, era manovrato dagli americani, ai quali non piaceva più quel sistema politico lì, ai quali magari, i quali americani magari volevano fargli anche pagare a Bettino Craxi, quello che durante la crisi di Sigonella aveva detto no a Ronald Reagan alla consegna dei terroristi. Vi sembra credibile questa versione? Questo è il nostro sondaggio di oggi. Bisogna dire che prevalgono i no per ora con il 65%. Intanto Di Pietro ci ha ironizzato così. Ebbene sì, lo confesso. Io stavo facendo il metalmeccanico in Germania. A un certo punto sono stato contattato da uno che pensava essere del KGB, invece era della CIA, e mi ha parlato, siccome io non so parlare italiano, ma ha parlato in inglese, sapessi come sono inglese io, cavolo, e mi ha detto: io adesso ti faccio diventare, ti faccio laurearti, ti regalo una laurea, perché tu non lo riesci a prendere, poi ti faccio diventare prima segretario comunale, vincere un concorso, poi ti faccio vincere il concorso di commissari di polizia, poi ti faccio vincere il concorso in magistratura, poi ti faccio andare a Milano, poi ti faccio mettere nel sacco Borrelli, D'Ambrosio, Davigo, Colombo, quando è, e tutti insieme sconfiggiamo questa prima repubblica del CAF, Andreotti, Craxi e Forlani, e lo sconfiggiamo con una serie di inchieste. Se avessi fatto questo, ma che bravo che so. Questa è la parodia di James Tonino Bond, come si è definito. Voglio salutare l'avvocato Mario Di Domenico, buongiorno. Lei è l'autore di questo libro che uscirà presto, Il colpo allo Stato, nel quale ci sono le foto, una delle quali è finita sul Corriere della Sera. Lei era un grande amico di Pietro, no? Era segretario, sì, del partito. Sì, sì, sicuro che segretario del partito, sicuramente amico anche. Amico anche. E poi che è successo? Ma vede, io vorrei intanto una piccolissima premessa. Queste parodie semplificanti che fa Di Pietro, francamente, sono condivisibili. Io non credo che Mani Pulite sia stato uno strumento della CIA o dei servizi segreti italiani, assolutamente, è stato semplicemente un'inchiesta, e io neppure sul libro entro minimamente sull'inchiesta, che occupa ormai i massimari della giurisprudenza, punto. Però in quel periodo c'è una frase del Presidente della Repubblica, non l'ultima persona d'Italia, che dice che dal 91 in poi l'Italia attraversa un periodo di pessima valutazione in campo internazionale, per cui stiamo quasi al tracollo. Ecco, qui entrano gli uomini e i loro comportamenti, questo, sì, è il tema del libro. Per esempio, oggi sul Corriere della Sera, siccome Di Pietro è stato intervistato 2 giorni fa e aveva detto: io un viaggio negli Stati Uniti con Mario Di Domenico, cioè lei, no, credo proprio di non averlo fatto. Lei che ha fatto? Ha invece ha fornito le foto. Oggi il Corriere della Sera pubblica queste foto di un viaggio fatto nel 2000 negli Stati Uniti. C'è lei, c'è Di Pietro, ci sono le foto, insomma, la testimonianza che questo viaggio c'è stato. Che viaggio era? A cosa serviva? Mi spiego subito. Siamo quindi nel 2000, io sono dentro il meccanismo del grande giubileo, arriva questa email, Di Pietro sa dove io sono, mi manda, perché questa era una email un po' ambigua, di un certo Bianchini, Sanctuary Rom, quindi lui intuisce, mi manda: vedi un po' di che si tratta. Questo ci offriva soldi, denaro, in cambio di un'elezione al Senato della Repubblica. Di Pietro mi dice: bene, andiamo, anche perché io non potevo decidere, ha deciso lui, è andato lui, che è stato lui che si è lasciato attrarre dal denaro, e qui entrano gli uomini del mio libro, attenzione, non le inchieste Mani Pulite. Andiamo quindi in America, ma in America mi accorgo che Di Pietro è una persona molto ambigua, perché quando si tratta di parlare di soldi, insomma, lui è il classico socio ladro in cui dice al compare: andiamo a rubare, però entra tu, ruba, io per prendermi le scarpe. Questo lei avvocato, sono affermazioni gravi delle quali, no, si assume la responsabilità, no? Assolutamente. Ecco. Io sono perché so che ha fatto 19 querele e le ha perse tutte, non vorrei... Guardi, questo è un altro aspetto bisogna chiarire. Di processo penale ce n'è stato uno solo. Adesso il signor Di Pietro deve spiegarci quali sono le 19 querele. Perché in Italia c'è una regola che dice ne bis in idem, cioè non ce ne possono essere due. Lui dice che ce ne sono state 19. Il signor Di Pietro deve badare bene come parla. In ogni caso, insomma, in questo viaggio vi fornivano... Chi è che vi dava dei soldi? In questo viaggio, quando ci sedevamo a tavola, il signor Di Pietro, siccome le sue orecchie da ex magistrato erano strapure, mentre quelle dell'avvocatura dovrebbero essere le sporche di immondizia, che faceva? Nel bel mezzo della discussione, come si entrava a dire siamo un partito, stiamo facendo questo, abbiamo fatto Mani Pulite, lo diceva lui, si alzava e se ne andava. A me mi lasciava un po', insomma, titubante, dire ma adesso a questi che gli dico che mi devono dare i soldi? E così qualcuno mi dice questo intanto è un anticipo, un assegno di 50.000 euro intestato all'Italia dei Valori, poi te ne daremo tanti. Ma perché secondo lei perché vi davano dei soldi? Ecco, torniamo alla frase del Presidente della Repubblica Scalfaro: l'Italia subisce Mani Pulite, subisce un'inchiesta, c'è un grande cambiamento, c'è evidentemente anche un'attenzione, io non so chi è che guarda l'Italia in quel momento, la CIA, gli Stati Uniti, il Canada, la Francia, non lo so. Bisognava puntare su alcuni uomini. C'era un grande cambiamento, forse qualcuno, ma questo lo deve spiegare Di Pietro, non con le barzellette che racconta come poco fa che abbiamo sentito. Sì, sì. Forse qualcuno osservava gli uomini del momento. Scusate, nel 92 Di Pietro, guardate, era poco meno potente del Papa. E quindi io mi trovo in queste scene, ma quando mi si dà a me 50.000 euro sotto banco per fare eleggere un senatore in Italia, e io sono una persona, oltre che avvocato, sono un ricercatore della storia del diritto italiano, e ho pubblicato al CNR, e mi tornano in mente le repubbliche sudamericane degli anni 70, però so che mi trovo di fronte anche degli uomini molto avidi, Mura e Di Pietro, i quali... Mi guardo bene da dare l'assegno. Sì, questa è la verità. Poi Di Pietro farà querela, punto. Va bene, Silvana Mura è un altro deputato anche dell'Italia dei Valori. No, ma rimango con noi, avvocato, perché intanto voglio salutare. Sì. Ci stanno ascoltando l'eurodeputato Luigi De Magistris. Buongiorno, ben ritrovato De Magistris. Buongiorno a lei, ascoltatore. Così come Bobo Craxi, leader dei Socialisti Uniti, figlio di Bettino Craxi. Buongiorno, Craxi. Buongiorno. Senta, De Magistris vuole intanto. Lo so, non c'è Di Pietro qui a difesa, ma lei sembra credibile. In realtà, Di Domenico dice non mi sembra credibile l'idea di Pietro uomo della CIA, ma Di Pietro uomo sui quali qualcuno puntava in quei momenti di difficoltà della Repubblica, le sembra credibile? Vorrei rispondere su due punti. Uno, il fatto che Di Pietro possa essere una persona utilizzata da burattinai è un'offesa alla magistratura italiana. La stagione di Tangentopoli, Di Pietro è stato il principale protagonista, ma c'è stato Borrelli, Davigo, Colombo, altre procure d'Italia, è stato un movimento che non è negli scaffali della giurisprudenza, come diceva Di Domenico, ma nella storia di questo paese. Quindi delegittimare Di Pietro significa delegittimare Mani Pulite e fa solo ridere. La seconda punto invece sul quale mi vorrei soffermare, che la sua domanda iniziale è quest'altra vicenda che anche... ridicola delle foto di Contrada. Noi dobbiamo contestualizzarle nel tempo, quindi fine 92, quando Contrada era un funzionario dello Stato, quando Di Pietro era appunto il magistrato più famoso non solo d'Italia ma d'Europa, se non del mondo, avrà incontrato in quel periodo tantissime persone, tra cui anche Contrada. Ma non dimentichiamoci che tanti di noi hanno fatto i magistrati, hanno incontrato magari appartenenti alle forze dell'ordine e poi sono state arrestate. Ricordiamoci Canale, che era il principale collaboratore di Paolo Borsellino. Sarebbe stato grave se Di Pietro quella foto fosse stata ritratta dopo anni, quando Contrada è stato arrestato, è stato condannato. Ma perché accade questo? Noi questo ci dobbiamo chiedere. Da un lato per questa delegittimazione di una stagione di Mani Pulite che passa attraverso anche la pseudo riabilitazione di Craxi, ma anche perché si vuole buttare fango in questo momento storico dove ci sono indagini invece molto delicate sulla trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia. Allora buttare fango su tutti, anche su Di Pietro, anche su chi sta difendendo in questo momento la magistratura e la Costituzione, significa fare di tutto un'erba. Serve anche, lei dice, per legittimare la figura di Bettino Craxi. Qui abbiamo il figlio, Bobo Craxi. Che ne pensa? Lei, Craxi, già in passato più volte ha detto in realtà questa del, adesso non so se il, Di Pietro Burattino, ma comunque manovrato dietro di lui qualcuno, un aiutino, come dietro, come ieri ha detto Enzo Carra al Corriere della Sera, forse è una teoria che anch'io ho seguito. Ne è più convinto dopo queste foto? Buongiorno, ma intanto no, volevo dire, non c'è bisogno di queste cose per riabilitare una figura politica, non, quelle sono, attiene alla coscienza storica degli italiani, ciascuno si faccia un'idea, ciascuno ha servito a modo suo lo Stato, io penso in un modo, altri pensano in un altro, parliamo in ogni caso di figure politiche di un certo spessore, non di queste che considero abbastanza miserie umane. Abbiamo sentito il riferimento di fondi dell'Italia dei Valori, una cosa abbastanza agghiacciante. No, guardi, io ritengo questo, al di là del sondaggio che state facendo questa mattina, doveroso, sì, ma non è questo che stabilisce la verità. La verità sul piano politico, sul piano storico, la ristabilisce un organo istituito ad hoc affinché Di Pietro spieghi, dica la sua, eviti di buttarla in cacciara come sta facendo in questo momento. Queste vicende non fanno ridere nessuno, lo dico all'onorevole De Magistris, non fanno ridere nessuno, non c'è nulla di ridicolo. Ciò che inquieta è che durante la vicenda di Mani Pulite, uno di questi magistrati di punta dell'inchiesta Mani Pulite, che stava indagando sul finanziamento della politica, si incontrava con settori, ampi settori dei servizi di sicurezza del nostro paese, addirittura con collegamenti di carattere internazionale col servizio di sicurezza americano, con l'agenzia Kroll, che è un'agenzia investigativa a cui si è affidata spesso sia il Mossad che la CIA. Ora, tutto questo non è che possa passare, non fa ridere nessuno, bisogna capire esattamente di che si tratta. Ma lei lo vede come un incontro, voglio dire, scientifico? Mi devo fermare per dare il traffico, ma da qui voglio ripartire, perché Di Pietro ha detto era una cena, sono stato invitato da un generale dei carabinieri in caserma, chi c'era lì? C'era Bruno Contrada, che era un ufficiale dello Stato, sarebbe stato arrestato 10 giorni dopo, per me, io non sapevo nulla. Insomma, capire se era un incontro inconsapevole, un incontro, come lei dice, si incontrava con agenti dei servizi segreti, che messa così adombra più che qualche sospetto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Eccoci qua, allora vorrei ripartire da quello che ha detto Bobo Craxi, che è ancora con noi. De Magistris vuole replicare sul punto, cioè Bobo Craxi dice non c'è nulla da ridere a vedere il PM di Mani Pulite che si incontrava con esponenti dei servizi segreti, insomma forse una commissione d'inchiesta, la traduco io, la richiesta di Bobo Craxi, in cui Di Pietro chiarisca bene tutto. Ma io capisco che Bobo Craxi, essendo il figlio di una persona morta latitante e condannata per corruzione a pene così gravi, voglia far riscrivere la sentenza a un'autorità politica quando le sentenze le ha scritte la magistratura. Lo posso capire sul piano umano, perché il figlio, ma sul piano storico e giudiziario è un'affermazione semplicemente risibile. Se mi vuole interrompere. Un attimo, Craxi, poi sono da lei. Un attimo. Però, insomma, abituato come l'arroganza del padre, se mi fa fare una riflessione, ognuno può esprimere le proprie opinioni. Sì, dica, la pagina storica l'ha scritta la magistratura, poi se adesso la politica magari la vogliamo far scrivere anche a Bernardo Provenzano e Totò Riina le pagine della storia di questo paese, non c'è problema, le scriverà Berlusconi ci dirà che cosa è stato Mani Pulite, il suo rapporto corruttivo con Craxi e tutto il resto. No, però non mi metta nella stessa frase, la vogliamo far scrivere a Bernardo Provenzano e poi mi cita Berlusconi, perché sennò poi sa qua, ma io sono sulle spine un po' oggi come i fakiri. Craxi che vuole replicare, insomma non le piace l'argomento che ha tirato in ballo dei Magistris. Ma bene, quando uno non ha argomenti dice queste cose, è evidente. Capisco l'imbarazzo di De Magistris, che tra l'altro è un magistrato, è un ex magistrato che si occupava d'altro, quindi è chiaro che non può difendere o raccontare cose che non conosce, probabilmente, anche perché De Magistris all'epoca non era neanche un sodale di Pietro come oggi, e quindi fa un po' di propaganda. C'è un problema ovvio, evidente, lampante, che naturalmente inquietante, perché queste foto appaiono dopo 20 anni, e quindi chiaramente qualcuno lo ha fatto per colpire direttamente Antonio Di Pietro, e quindi al fine, diciamo, di spiegare, illustrare questa vicenda, se non c'è nulla di male, come naturalmente io ritengo non ci sia nulla di male, non c'è nessun reato, però dopo 20 anni è giusto che uno racconti la vicenda come è andata. Vuole una vicenda, commissione d'inchiesta? Una la commissione vicenda come è andata? È evidente che essendosi aperto un vuoto di carattere politico, molti avevano interesse a orientare, a influenzare, non voglio dire a guidare, a influenzare le vicende italiane. Questo non ha nulla a che vedere con il giudizio sull'inchiesta della magistratura sul fatto che in Italia ci fosse il sistema politico che si approvvigionasse di finanze illegali, ma è come se noi volessimo uccidere le zanzare usando la pistola, che c'entrano i servizi, anzi lo dico alla Di Pietro, che ci azzeccano i servizi segreti italiani, americani ed altro con la lotta alla corruzione. Che ci azzeccano? Vediamo. Ma avvocato Mario Di Domenico, lei questa foto l'ha già dichiarata Radio 24, gliel'ha data uno dei commensali? E me l'ha data una persona che quella sera è stato testimone come me di tante situazioni. Che era lì? Ha pensato. Non ci dice da buon avvocato o forse anche, oserei dire, come un giornalista non svela la fonte, insomma, no? Beh, possiamo aspettare, tanto che l'ha detto nel libro, spiegato come tutto, tutti i passaggi. Senta, ecco, il legame, era una cena in cui Di Pietro era stato invitato, come ha detto lui, ed era lì con persone, alti funzionari dello Stato, o insomma è una foto che secondo lei deve essere fonte di imbarazzo? Guardi, io vorrei precisare ancora una cosa. Io sono d'accordo con la ricostruzione che il dottor De Magistris fa del periodo stragista, che ho letto molto attentamente, e sono assolutamente d'accordo con lui. Sono anche d'accordo con il dottor Bobo Craxi sulla possibilità vera di una commissione d'inchiesta. Faccio presente che da testimone di quei giorni, l'unica grande cosa, prima che nascesse l'Italia dei Valori, che preoccupava davvero il dottor Di Pietro, era proprio questa commissione d'inchiesta, che poi nella storia della legislatura italiana è stata tentata più volte ma mai riuscita. Mm. Perché? Tant'è vero che Elio Veltri, che era un po' il capo ideale di questo nuovo movimento, mise tutti noi un po' più tecnici e capaci a scrivere e resistere questa commissione d'inchiesta. Di Pietro non lo potrà negare, perché io addirittura scrissi un libro con lui, Politica e diritto, dove appunto si resisteva. Vabbè, ma le ripeto, deve imbarazzare questa foto, secondo lei? Guardi, io sulla foto sono del parere del dottor Ingroia, cioè probabilmente, e lo scrivo nel libro, e Ingroia lo conferma, probabilmente quella foto faceva ancora più comodo agli altri, ma parlo soprattutto a Bruno Contrari, che è Di Pietro in quel momento. Certo. Però l'imbarazzo non è la foto, l'imbarazzo è il dopo. È il dopo, perché in quella foto c'è anche un'altra persona, c'è Francesco D'Agostino, che non dimentichiamo, viene assolto in tutto quando è ancora magistrato Di Pietro, però poi alla Spezia si scoprono delle intercettazioni e si scopre che questo Francesco D'Agostino prendeva soldi da Pacini Battaglia. Allora, è il silenzio del dopo. È il dopo. Allora, io ho 30 secondi, però De Magistris devo farle una domanda, perché oggi il giornale, così può replicare, leggo a pagina 11, così prendono il volo gli sprechi di De Magistris. Scrive che lei andrebbe con un jet privato da eurodeputato spendendo 1.800 euro a volo per andare a Bruxelles, ovviamente poi rimborsati a piedi lista. È vero? Guarda, è assolutamente falso. Io prendo un volo che fa risparmiare, insieme a tutti gli altri europarlamentari, che fa risparmiare al Parlamento europeo rispetto ad altri voli, quindi assolutamente rispetto falso. A quelli low cost. Come al solito il giornale fa un po' di strumentalizzazioni, non è la prima volta, quindi lo vedremo anche nel futuro su altre cose. Perché il giornale dice ci sono i voli low cost che costano 100 euro, mentre questo volo costa... Guardi, è assolutamente falso. Siccome io però sono abituato alla trasparenza su tutta la mia vita pubblica, io documenterò anche magari sul sito, così il giornale ancora una volta si dimostrerà che è l'organo di propaganda del padrone di questo paese, che è Berlusconi. Mi devo fermare qui perché oggi siamo puntualissimi, come sempre, ma oggi ancora di più perché c'è il ministro Gelmini alle 9, con 9 in punto, con Oscar Giannino, al quale cedo subito la linea. Allora, grazie a tutti, Luigi De Magistris, Bobo Craxi, Mario Di Domenico, Sara Spirafico in redazione con noi, così come Peter Bescapè in regia. E allora do la linea a Oscar Giannino col ministro Gelmini. Ci sentiamo lunedì mattina.